Nel 2010 torna a Sanremo con Ricomincio da qui, vincendo il premio della critica Mia Martini. Dopo il festival esce il suo secondo album, intitolato Grovigli. Nel 2012 si sposa con il regista Federico Brugia, che la dirige in un cameo nel suo film Tutti i rumori del mare. In attesa della partecipazione al Festival di Sanremo 2013, si gode il successo del suo terzo album, Ricreazione, di cui è anche produttrice. Lei è Malika Ayan. Una persona a cui io voglio molto bene mi ha insegnato che prima bisogna imparare per poter delegare. E dopo due dischi con un produttore fantastico che mi ha insegnato molto, era arrivato comunque al momento di provare un'altra strada, però diciamo che non ero ancora, è un po' come quando sei adolescente, non sai bene, non sapevo ancora qual era la mia vera identità, diciamo, perlomeno non so se incontrando un'altra persona con una presenza, una storia artistica più forte della mia, sarei stata mai in grado di non farmi plasmare eccessivamente, no? E quindi per evitare questa cosa ho deciso di correre il rischio, quindi mi sono buttata in questa tauromachia musicale in cui alla fin fine ho preso e fatto tutto da sola, cioè poi in realtà tutto da sola non fa niente nessuno, ma ho chiamato la squadra, che è la mia band soprattutto, e un gruppo di autori, per fortuna molti di loro anche amici, e insomma mi sono messa a dirigere questo carnevale. Tre sono le cose che devo ricordarmi di fare quando, come una luce, entrerai. Ci sono tante canzoni d'amore con tante fasi dell'amore. Tra l'altro noi ci siamo fatti tanto i fatti tuoi ultimamente, delle tue evoluzioni, ce le abbiamo tutte le evoluzioni, però le tue le sappiamo. Com'è stato mettere insieme tutti questi aspetti dell'amore in un solo disco, perché se ne parla tanto nei testi? Ma se, allora, diciamo che molto puerilmente, a 28 anni non ci sono delle cose che io conosca così bene da poterne parlare anche con una certa ostentazione. L'unica cosa che ho capito è che nessuno è immune ai sentimenti, per cui la costante che già da quando uno nasce all'ultimo giorno della sua vita, insomma quello che ci accomuna tutti in quanto esseri umani è proprio l'impossibilità di resistere alla potenza dei sentimenti, che se vogliamo canalizzarli in un solo grande insieme, quello dell'amore, sotto qualunque forma lo si voglia vedere. Tu sei passionale fino a farsi male, leggo i testi. Sono italiana, donna e cantante, insomma, non potrebbe essere altrimenti. Provi ad ingannarmi quando parli di un amore straordinario. Anche un'unica illusione può bastarmi, forse crederci sia vera. Nomi dei collaboratori, nomi che già fanno emozionare solo i nomi. Io poi ho delle passioni, quindi non riesco a nasconderle, da Pacifico a Paolo Buonvino, insomma non riesco a nascondere le passioni per questi grandi della musica italiana. Come ti sei accompagnata con loro, ma anche insomma con Busta, con questi nomi così grandi? Ma con la curiosità, perché lo stesso lavoro fatto con i miei musicisti, per cui sei qui è perché so che cosa sai fare, mi piace come lo fai, ugualmente con gli autori. Se con Gino Pacifico c'è, cioè, ormai un rapporto consolidato, per cui quando gli scrivo, cioè se è stato il testo di Neve Casomai per esempio, che io gli mando, mi va male, ma cioè non puoi prendere a schiaffi la gente, cioè non puoi, devi essere un filino, cioè istigare un pochino alla speranza, per cui lui è quello che riprende in mano i ritornelli, perché cerca di dare insomma un pochino più di morbidezza, e ci prendiamo molto in giro per queste cose che sono quella viscere, cose mostruosamente appunto passionale. Lui è quello del risolviamo tutto con calma e mettiamoci un po' di neve, aria, ghiaccio e queste cose. e con gli altri che conoscevo meno, comunque è stata proprio la curiosità di poter avere un po' del loro mondo a colorare il mio, per cui come invitare delle persone a cena, ognuno porta qualcosa rispettando un tema ma interpretandolo, ed è quindi stata una bellissima esperienza, anche perché poi alla fine il puzzle secondo me è abbastanza ben riuscito. A un certo punto del disco c'è un colpo al cuore, Serge Endrigo, con qualcosa di molto bello, è proprio un gioiellino messo lì, perché questa cosa è un po' una sorpresa. Ma è stato un regalo bellissimo, trovato negli archivi della Sugar, che Serge Endrigo aveva realizzato una raccolta di, cioè aveva musicato una raccolta di poesie da lui selezionate, soprattutto di autori della Beat Generation, in mezzo a questi scuri vagabondi saltate fuori invece questa piccola perla, che a me dava proprio l'idea della leggerezza lieve della primavera, per cui come ultimo brano abbiamo deciso di inserirlo un po' per farci un autoregalo, per cui chiudersi in quartetto in una stanza a suonare come fossimo in un salotto dell'Ottocento, e un po' abbiamo pensato che potesse servire uno spartiacque tra la parte, se vogliamo, più rotolante del disco, quella che ti travolge, che arriva come un'onda con il mare mosso, e quella che invece si promette di essere quella un pochino più lucida e razionale, e quindi questo respiro serviva proprio soprattutto per permettermi di divertirmi molto e potermi vantare con tutti. Io ho un inedito di Endrigo, maledizione, e sono felicissima. Non lascerò che se senno a decidere ciò per cui combattere, cosa perdere. Stai con me anche se male farà. Tu poco fa hai detto 28 anni, però in Italia 28 anni si è considerati ancora dei bambini, invece tu sei mamma di una bambina grande, cioè sei una donna a 28 anni, cosa pensi del fatto che siamo sempre considerati ancora piccoli in Italia? Ma forse sai che più che essere considerati piccoli, viviamo in una contraddizione pazzesca, per cui a 28 anni ci si aspetta, a 30, cioè c'è una richiesta di responsabilità pazzesca, cioè ci si aspetta che un giovane abbia delle esperienze, delle conoscenze, delle capacità, e contemporaneamente però per esempio mio marito è un giovane regista a 45 anni dopo 25 anni che fa film anche di una certa importanza, cioè è esposto in un museo ma è un giovane regista, è una cosa che è veramente bizzarra, quindi è questa contraddizione che in qualche modo secondo me va un po' ignorata, è un po' come oh, ma sei donna e sei anche mamma, ma insomma è la natura, quindi cerco di appunto di ignorarla, nel senso di andare avanti come un panzer, e cioè, mi accorgo che le persone che bene o male non si lasciano condizionare, cioè, ovvio che uno si scoraggia alle volte quando vede che non è facile raggiungere risultati che sembrano così vicini, però in realtà se si fa finta che non esistano questi pregiudizi, poi le cose si possono fare, e quindi è meglio lo stupore di qualcuno che dice ma sei così giovane, invece che magari rimandare a quando sarà considerato un filino più grandi. Era quella di Malika Ayane, la seconda voce in scena di oggi. Ci ritroviamo con altri due personaggi dello spettacolo domani alla stessa ora.